Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Delivery sì, asporto no. Il mondo della ristorazione si interroga sulle ricette per contenere i danni del lockdown e mette in campo nuove iniziative, dalle procedure di sicurezza garantite via blockchain ai Risto Bond. E poi nella puntata di questa sera l'aiuto ai piccoli negozi che arriva dall'app Antispreco, la prima interessante iniziativa con cui la GDO guarda al mondo dell'intrattenimento domestico e le nostre acrobazie digitali quotidiane. Prodotti e servizi, insomma, in tempo di emergenza. Prima però, come sempre, la riflessione con il sociologo dei consumi Francesco Morace. Il consumautore. Nel mondo dei consumi in queste ore, anche e soprattutto in previsione della ripresa, si moltiplicano gli interrogativi sul fronte della sostenibilità. Sarà ancora possibile essere consumatori green e contemporaneamente attenti alla sicurezza sanitaria? Come ci comporteremo nelle nostre abitudini quotidiane? Francesco Morace, ben trovato. Buonasera Maria Luisa. È una bellissima partita che ci sarà, nel senso che da un lato i nostri consumatori, anche gioco forza, si stanno comportando in modo più che sostenibile, perché lo smart working, la riduzione della mobilità, avere comunque una nuova esperienza di prossimità, perché ciascuno si muove a 200 metri di casa e non di più, sono tutte indicazioni che gli ecologisti più scatenati avevano sempre dato in questi anni. Dall'altra parte però è chiaro che c'è un mondo dell'industria che vuole ripartire e che sicuramente sarà meno vincolata da indicazioni legate alla sostenibilità. Quindi è una partita tutta da giocare e francamente è difficile fare delle previsioni. Vediamo quali sono le punte dell'iceberg, ad esempio la mobilità. Sì, anche in questo caso probabilmente in Italia avremo delle situazioni molto a macchia di leopardo, no? Come spesso avviene nel nostro paese. Io che sono napoletano e già conosco l'attitudine a sud di uso dell'auto privata, immagino che si tornerà a questo per molto tempo, perché ci si sente più sicuri, no? Ci si sente in qualche modo protetti. A nord probabilmente, o in quelle città dove tutto il sistema per esempio viario è stato già in parte adattato alle biciclette, io credo che ci sarà anche una nuova esplosione anche di uso delle biciclette, che dovrebbe essere naturalmente incentivato. Pensiamo anche al mondo dei prodotti e del packaging, lo abbiamo visto del resto in queste settimane nei supermercati: interi reparti con la frutta sfusa sono stati sostituiti dalla frutta già confezionata nella plastica, per agevolare anche in termini di tempo, di velocità, la spesa di questo periodo. Ecco, il packaging diventerà una cartina di tornasole di questa scommessa. Sì, è chiaro che in questa fase, ma per molto tempo, si privilegerà la sicurezza, la protezione, la salute. Siamo ancora molto spaventati, lo saremo per molto tempo. Credo che sarà molto importante per le aziende, anche leader di questi diversi settori, continuare però a considerare anche la sostenibilità un elemento chiave. Ci sarà spazio per le terze vie, le soluzioni geniali come la bicicletta nell'opposizione ai mezzi pubblici, auto, così in tutti gli altri settori. Su questo forse gli italiani potranno dare un loro contributo, come sempre, di ingegno, di ricerca, di pensiero laterale, quindi di possibilità che già oggi vediamo, alcune cose anche abbastanza originali, con delle alternative che non sono di contrapposizione netta tra salute e sostenibilità, ma intervenire in un ambito che è quello della creatività applicata, quindi progettare un modo di vita nuovo che riesca in qualche modo a salvare capre e cavoli. La La maggior parte dei paesi europei permette a bar e ristoranti chiusi per il lockdown la vendita di piatti da asporto, il takeaway. L'Italia no, solo il delivery, la consegna a domicilio effettuata autonomamente oppure attraverso il servizio delle piattaforme digitali. Un'anomalia su cui FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, chiede al governo di intervenire. Siamo partiti da qui nella nostra chiacchierata con Matteo Musacci, presidente del gruppo giovani di FIPE, per raccontare anche le ultime iniziative messe in campo, come Trust Delivery, un'applicazione realizzata dalla startup Posti in partnership con EY, che permette al consumatore tramite un QR code di verificare se il cibo che gli è stato consegnato è stato preparato in sicurezza. Oppure ci rivediamo presto.it, la piattaforma per i Ristobond, che vi anticipiamo, questa è un'anteprima, sarà online tra qualche giorno. L'aspetto è la prima richiesta che come FIPE abbiamo voluto fare, perché se è vero che le persone escono per andare al supermercato piuttosto che alla bottega, altrettanto vero che potrebbero uscire per andare al ristorante a acquistare il proprio pasto, che può essere la pausa pranzo dell'ufficio piuttosto che una cena da portarsi a casa. Questo perché per molti ristoratori il delivery può avere dei costi molto importanti, sia se gestito autonomamente sia se fatto gestire dalle piattaforme più conosciute. E siccome noi riusciamo a garantire, esattamente come garantiscono tutte le altre categorie commerciali, degli ingressi contingentati, delle fasce orarie di ritiro dei pasti, non vediamo perché non possiamo andare incontro alle esigenze e a quello che ci chiede la nostra clientela. In attesa dell'asporto, di una decisione sull'asporto, voi comunque, per quanto riguarda il delivery, avete messo in piedi una vetrina digitale. Sì, esatto, Risto a Casa è appunto questo portale voluto fortemente da FIPE. È un portale dove l'utente, collegandosi a questo sito, può inserire la propria città, la località dove vive, e avere una visione il più larga possibile di tutti i locali che effettuano delivery, proprio perché molto spesso c'è un locale che magari si affida a quella compagnia di delivery, a quell'altro, oppure che lo gestisce autonomamente. L'idea è avere una visione a 360 gradi di tutti i locali che in questo momento possono offrire questo tipo di servizio. Per quanto riguarda tutte le procedure di sicurezza, che voi avete partecipato a un'iniziativa, siete stati voi anzi a stilare il protocollo di sicurezza che prevede un controllo tramite blockchain. Ce lo vuoi raccontare? Allora, noi come categoria commerciale eravamo già abituati a seguire tutte delle normative di sanificazione, procedure di catena del freddo e tutto quello che insomma nel nostro autocontrollo seguivamo. Abbiamo voluto fare di più proprio perché in questo momento, chiaramente, con l'esplosione dei delivery, con tantissimi ristoratori che prima facevano solo i ristoratori, oggi si sono ritrovati a fare ristorante a domicilio, abbiamo voluto fare questa partnership proprio per dare più forza al nostro processo di delivery, di preparazione, ma anche di trasporto. E quindi questa etichetta che viene apposta sul box che arriva a casa dei clienti che ordinano, con un QR code, in questo QR code, tramite la tecnologia blockchain, che è appunto quella tecnologia che permette di non modificare più quello che già si è scritto, il cliente può trovare tutte le procedure che dal ristoratore al rider, che sia rider proprio o rider di una piattaforma, mettono in campo per far arrivare al cliente nella maniera più sanificata possibile il pasto a domicilio. Ultimo tema sul tavolo in questo periodo, i cosiddetti ristobond. Molti ristoranti, anche stellati, hanno fatto notizia appunto per questa iniziativa, la possibilità per i clienti di pagare in anticipo il proprio ristorante in attesa che il proprio ristorante di fiducia, dove insomma in questo periodo non sono potuti andare, in attesa che poi ci sia la riapertura. Ecco, qual è la vostra posizione su questo tema? L'abbiamo seguita sin dall'inizio, sin da quando in America sono usciti quelli che vengono chiamati nei paesi angloamericani dining bond. Noi li abbiamo voluti chiamare risto bond proprio per italianizzare il tutto, Sostanzialmente, quello che abbiamo voluto fare, visto che ci sono molti portali che allo stesso tempo danno la possibilità di acquistare questi bond, questi buoni pasto, noi volevamo dare uno strumento e ci siamo riusciti grazie ad un accordo stilato con Nexi, che è la più importante compagnia di gestione dei pagamenti elettronici in Italia, dando la possibilità al ristoratore di ricevere questo bond a costo zero, cioè senza nessun tipo di commissione. Quindi il cliente va sul sito che sarà online nei prossimi giorni, compra un taglio di Risto Bond che arriva direttamente nel conto corrente del ristoratore. Il ristoratore che cosa farà? A fronte di questa di fatto proprio dimostrazione di fiducia del cliente al ristoratore, aggiungerà al valore facciale un plus valore del 25%. Quindi oggi io compro per 50 euro, domani ho un servizio al ristorante per 62,50 euro. Sul sito fipe.it ci sarà direttamente il link, però abbiamo anche creato un sito che si chiamerà, appena sarà online, appunto, dicevo, questione di giorni, ci rivediamo presto.it. Ora ci fermiamo per una piccola pausa, restate con noi perché nella seconda parte parleremo di informazioni e servizi che ci arrivano dai negozi di quartiere, della bella iniziativa di Coop per l'intrattenimento a casa e delle acrobazie digitali che abbiamo imparato a fare ogni giorno. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfon? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi e puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enfon.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enfon.com/promo. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere Avere torniamo a parlare dell'app contro lo spreco alimentare Last Minute sotto casa. È una bella storia, un caso virtuoso, pluripremiato che vi abbiamo raccontato fin dal suo esordio qualche anno fa. Torniamo a parlarne, dicevamo, perché ha lanciato una nuova iniziativa che consente ai negozianti di informare i cittadini di zona su orari, prodotti e servizi come il delivery in tempo reale. Con un tocco, un tap sul telefonino. Ci spiega tutto il fondatore Francesco Ardito. Questo nuovo servizio nasce, se vogliamo, come spesso capita, un po' da un'intuizione che osservando un po' quello che succede, girando per il mio quartiere, facendo, ho un cane, quindi sono autorizzato a farmi il giro. Girando ho visto parecchi negozi di alimentari che mettono fuori un cartello: siamo aperti, vi consegniamo la merce a casa. Allora noi abbiamo pensato, essendo Last Minute sotto casa un'app che mette già in comunicazione tanti negozianti con cittadini di prossimità, perché non dare al negoziante, anziché obbligarlo a fare lo sconto per il prodotto in eccedenza, che è la natura, che è la logica che guida la spesa di casa, dare a questi negozianti la possibilità di avere uno strumento semplice e immediato di comunicazione con i cittadini di zona per comunicare banalmente: sono aperto, fino alle 20 ci sono, faccio le consegne a casa, se mi chiami ti impacchetto la merce pronta da portare via, accetto anche i buoni pasto e via discorrendo. Quindi abbiamo deciso di trasformare, più che trasformare, aggiungere una nuova funzionalità alla nostra app per dare appunto uno strumento semplice e immediato di comunicazione tra l'esercente e i cittadini di zona. Che arriva sotto forma di notifica. Assolutamente sì, arriva sotto forma di notifica, quindi i cittadini che hanno l'app scaricata ricevono la notifica e quindi come minimo sono informati che dietro l'angolo a finire c'è un negozio di frutta e verdura che è aperto e che mi può erogare tutta una serie di servizi. Quindi uno strumento veramente di comunicazione diretta in modalità push con notifica da esercenti a cittadini. Quindi un ponte tra esercenti e cittadini che si rifà alla storia di Last Minute sotto casa, una storia che abbiamo raccontato all'epoca, molto citata, una startup pluripremiata. Ricordiamo agli ascoltatori chi siete, cosa fate. Sì, la Last Minute sotto casa casa nasce, parte sul territorio italiano 4 anni e mezzo fa, con l'idea di aiutare gli esercenti di prossimità che avessero del prodotto alimentare che rischiava di essere trasformato in spazzatura in quanto invendibile, in quanto vicino alla scadenza, dare la possibilità a questi esercenti di comunicare ai cittadini che c'era la possibilità di acquistare, non so, una confezione di mozzarella o una di ricotta a metà prezzo a due passi da casa, con una logica win-win-win, dove vinceva il negoziante perché riusciva a trasformare, diciamo, in comunque seppur minimi delle entrate di cassa, un vantaggio per il cittadino che comprava un prodotto fresco pagandolo la metà, e un vantaggio per il pianeta perché si riusciva in questo modo a evitare che appunto questo prodotto ancora fresco diventasse spazzatura. Siamo partiti, come hai detto tu, qualche anno fa, siamo cresciuti molto e devo dire, anche per ricollegarci all'ultima iniziativa, a questa intuizione, la startup è stata poi acquisita da un grosso gruppo, il gruppo Up Day, che distribuisce buoni pasto in Italia, e la scelta importante, non l'ho detto prima, da parte del gruppo è stata quella proprio di modificare la nostra app, dare questo servizio nuovo di cui ho parlato, legato all'emergenza Covid, in maniera gratuita. È stata una scelta importante di dire, finché ci sarà l'emergenza in corso sarà sempre gratuito per i cittadini, ma qualsiasi negoziante voglia farne utilizzo potrà utilizzare questo nuovo servizio a titolo assolutamente gratuito. È partita con successo lo scorso 8 aprile a casa con Coop, l'iniziativa che mette a disposizione gratuitamente informazione e intrattenimento, dai film ai libri fino alle lezioni di yoga, una specie di comfort kit per tutte le persone costrette a casa. Ci racconta tutto Maura Latini, AD di Coop Italia. In questa emergenza Covid-19, in primis ci siamo occupati dei negozi, quindi l'inizio di marzo, messa in sicurezza dei negozi, sicurezza delle persone, dei nostri colleghi che ci lavorano, dei clienti, la garanzia della merce, tutto quello che poteva servire per assicurarsi il cibo. Però subito dopo abbiamo pensato, siamo tutti a casa, il cibo è fondamentale, ma non c'è solo il cibo, e quindi abbiamo iniziato a lavorare per trovare delle risposte, per essere d'aiuto per le persone che stanno in casa. Un messaggio di vicinanza di Coop, ma anche un contributo a passare del tempo in casa in maniera interessante e gradevole. Siamo partiti anche da un altro presupposto, che in fondo in questo periodo noi abbiamo sospeso le nostre consuete pubblicità che parlavano di prodotti, parlavano anche di contenuti, perché è un momento in cui l'attenzione, l'interesse, anche le necessità delle persone sono altre, e quindi perché non sostituire la nostra presenza anche sul grande schermo, sulla radio, con appunto altri prodotti, libri piuttosto che settimanali, piuttosto che video e audiolibri anche, quindi una proposta di intrattenimento gratis, naturalmente a scelta per i clienti, per le persone che ne volevano usufruire. Che tipo di riscontro avete avuto in questa prima settimana? Sicuramente superiore alle aspettative, perché noi è la prima volta che ci avviciniamo a proposte di questo genere. Certo, si tratta comunque di un'offerta molto molto varia e vasta. Alcune tipologie di prodotto sono andate subito esaurite dopo una settimana e le stiamo già rinnovando in questi giorni, per esempio quella dei settimanali, ma anche gli ebook sono andati molto bene e gli audiolibri altrettanto. Abbiamo per esempio il film di Rakuten con un catalogo vastissimo, 500.000, per la metà sono già esauriti, ma qui comunque crediamo che almeno fino alla metà di maggio ci sia disponibilità per tutto, dai film agli audiolibri, alle ebook e ai settimanali. Un'altra cosa carina, mi piace raccontarla questa, abbiamo messo a disposizione anche delle lezioni di yoga. Non sappiamo in quanto ne hanno usufruiti, però sappiamo in quante persone si sono collegate, e sono oltre 400.000. Non credo che tutti avranno fatto lezione, ma insomma è un numero importante per delle lezioni di yoga, e questo ci ha fatto molto piacere. Focus sui trend. Dai prodotti ai servizi, in questo periodo molti di noi hanno dovuto o potuto ampliare le proprie competenze digitali, abbiamo sperimentato nuovi servizi, imparato a fare cose che prima non facevamo, scoperto nuove possibilità. Il lockdown, insomma, ci ha costretto, ci costringe a vere e proprie acrobazie digitali per il lavoro o per svago. La definizione è di Carlo Ricciardi di Future Concept Lab. Ciao Carlo, bentrovato. Buonasera anche a voi. Partiamo dal tema del funzionamento, dell'abilitazione, dell'assistenza dei nostri device tecnologici che in questo periodo si sono moltiplicati nelle case di molti. Sì, si sono moltiplicati anche perché nelle nostre case sono arrivati stampanti, scanner e accessori di tutti i tipi, soprattutto per prepararsi al meglio a quelle lunghe sessioni di videoconferenza per motivi di lavoro, di studio, di svago. Si pensi come accessori solo alla quantità di auricolari e cuffie che sono sparpagliati nelle nostre case. Quindi il parco dispositivi familiare in molti casi si è ampliato con l'acquisto di nuovi computer e tablet per soddisfare un uso sempre più intensivo ed in contemporanea fra i vari componenti della famiglia. Tutti questi elementi hanno provocato una crescente domanda di assistenza, soprattutto nella fase di installazione e configurazione, a cui non è stato possibile rispondere con la consueta disponibilità da parte dei commessi dei negozi di elettronica. La rete informale di GIC o smanettoni, che prima del lockdown assicurava la soluzione dei problemi più semplici, ha dovuto fare un salto di qualità per evitare il contatto fisico tra le persone. Da qui il diffondersi dell'utilizzo di software per il controllo remoto dei computer che permettono di operare sui computer a distanza. Strumenti che in passato erano dedicati all'assistenza di utenti professionali sono diventati di uso quasi comune anche per interventi occasionali e disponibili gratuitamente per l'utilizzo personale e non commerciale. In questo panorama segnaliamo il diffusissimo TeamViewer, installato su più di 2 miliardi di dispositivi, il veloce AnyDesk e l'italiano Supremo. Quindi dal professionale al domestico, questo è un po' il fenomeno al quale stiamo assistendo. Un altro è quello dei nuovi utilizzi per i nostri device che diventano un po' più multitasking. Sì, nel panorama domestico degli ultimi anni i computer tradizionali sono stati utilizzati sempre meno, sostituiti da smartphone e tablet per molte delle loro funzioni. Li abbiamo, diciamo, un po' abbandonati. In questi giorni molti di questi sono tornati a nuova vita. Possiamo ad esempio collegarli ad un televisore e farli diventare sistemi di intrattenimento domestico grazie a software come Kodi. Questo sistema gratuito permette di vedere video e foto, ascoltare musica e podcast. Chi ha un po' di dimestichezza con la tecnologia può provare a convertire i computer più vecchiotti, che a fronte di una potenza di calcolo ridotta spesso montano hard disk di dimensioni generose, possono trasformarli appunto in stazione di archiviazione connessa alla rete casalinga grazie a sistemi come FreeNAS. In tema di passione di intrattenimento, grande spazio a una tendenza che abbiamo già analizzato in passato, il cosiddetto retro gaming, cioè la mania per i videogiochi anni 80. Sì, anche qui i vecchi computer hanno una caratteristica particolare, che è quella di saper gestire al meglio vecchi videogames. Basta installare un emulatore come Mame e poi cercare tra le tante risorse messe a disposizione dalla rete su My Abandonware, Good Old Games e Betesware, che offrono download gratuiti o a prezzi abbastanza popolari. Chiudiamo con le app. In questo periodo le normali classifiche di download e di utilizzo delle app sono completamente stravolte. Esce TripAdvisor, per dirne una, logicamente. Che cosa entra, Carlo? Al vertice, come potevamo immaginare, troviamo le app che consentono i videoincontri e le videochiamate, da Zoom a Hangout Meets di Google, da House Party a Skype. Seguono poi le app per la visione in streaming, da Disney Plus a Netflix, e quelle dedicate allo shopping online e per il fitness casalingo. In fondo alla classifica, come dicevi, al momento sono quasi sparite le app di dating, di sharing, di mobilità e di navigazione. Una curiosità: in testa nelle vendite dei giochi a pagamento per dispositivi mobili figura il Monopoli. Carlo Ricciardi, grazie, alla prossima. Grazie a voi. finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. A domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.